sì, appunto desiava il mio cuor di rivederti. Al tuo accenno qui sono, io già son morto. Carne di fe, vorrei parlarti. Non dubitar, mio bene. Tu taci e guardi, riappobbilisco, ascolto. Non ascoltarsi mai. Io vado per dirti, fede sarò per te. Non posso udirti. Sì, parlarmi dovevi, io qui t'attendo. Io parlo, dito il sfogo. Obbedienza io voglio. Aspetta un poco. Quanto caro mi sei, quanto spietato il cuore. Parti non più. Ma qui m'ascolto, tanto mi detta in sé.